Ciao Muso, come stai? Hai combinato guai? Io avevo voglia, sai, di coccolarti un po', di averti qui con me. Non dirmi che tu hai un'altra cotta ormai. No, non è possibile. Forza, ripetilo, sono l'unica per te. È tardi, ma so che tu non dormi se io hai fatto il bravo o no? Di, mi hai pensato un po'? Tu mi sei mancato, sai, mi viene da piangere stasera più che mai. Che voce hai? Se hai problemi me lo dai. Se tu hai bisogno di me, mollo tutto per te. Amore piccolo mio, Dio che voglia che ho di abbracciarti, tirarti capelli e tenerti nel letto con me. Ti prego, cucciolo mio. No, tu non crescere mai. Rimani per me il mio angelo, figlio mio.